Giovedì 2 febbraio del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, l'appuntamento settimanale con il cinema, quello di Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15, anche se quest'oggi potremmo andare un po' oltre, abbiamo diversi ospiti. E gli ospiti, insieme a tutte le altre informazioni, li potete trovare sulla scaletta della trasmissione sul sito internet della radio, ossia www.ondarossa.info. Oltre agli ospiti ci sono le uscite in sala di domani, venerdì 3 febbraio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana, il link per riascoltare la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Partiamo con gli ospiti, un attimo di pazienza. Bene, è con noi il regista Daniele Gaglianone, ben ritrovato a Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie a voi di avermi chiamato. Come va? Va bene, qui sono a Torino sotto la neve, insomma fa molto freddo e stamattina non sono riuscito a tirare fuori la macchina dal parcheggio, ecco. Questa è la situazione. Allora, noi ti chiamiamo perché la prossima settimana, a partire da lunedì, che prevede un incontro qui a Roma, alla libreria Settembrini, per un tuo lavoro, La guerra che non ci sarà, questo è il titolo, alle 18.30, insieme ad altri interventi ci sarà quello tuo, e poi ci sarà una piccola rassegna che ti ha dedicato il Cinema de Tour. Allora, raccontaci un po' tutta questa serie di appuntamenti romani. Allora, dunque, sì, lunedì, come hai detto tu, l'appuntamento è alla libreria Settembrini per la presentazione del DVD più libro uscito con Derive a Prodi di Ratan Ecevit, appunto La guerra non ci sarà, che è il documentario che ho girato in Bosnia tra il 2007 e il 2008, che aveva vinto anche David Donatello nel 2009. È uscito per Derive a Prodi nell'ambito della collana curata da Gianluca Arcopinto sul cinema autonomo, collana che si era aperta anche con un altro mio film, Pietro. E il DVD di Ratan Ecevit, La guerra non ci sarà, è uscito a dicembre, facciamo la presentazione adesso alla libreria Settembrini, lunedì alle 6:30 ci sarà Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Sì. E niente, spero che la gente ne accorra numerosa. Ci sarà anche proietteremo anche un estratto del documentario, e appunto il documentario è girato in Bosnia e insomma si parlerà di Balcani. Sì, ok. E invece dal 9 ci sarà una serie di lavori programmati al Cinema, sì, de Tour, al Cineclub de Tour. Sì. In questo caso quali sono i titoli, Daniele? Allora, i titoli che verranno programmati sono quelli dei miei quattro lungometraggi di finzione, I nostri anni, Nemmeno il destino, Pietro e Ruggine. Ma sarà anche mostrato sabato, mi pare, Ratan Ecevit di nuovo, il documentario sulla Bosnia. E in più c'è verrà presentato anche un video, una videodocumentazione di uno spettacolo teatrale che ho fatto qualche anno fa, che si chiama In qualunque modo questa guerra finisca. E questo lavoro sono particolarmente interessato anche perché ho un'altra trasmissione qui in radio sul teatro, facciamo gli spettacoli in diretta o mandiamo l'audio di registrazioni. Ecco, ti volevo chiedere, rispetto a questo lavoro, per esempio, l'argomento, il tema qual è? Ma guarda, è un lavoro teatrale ispirato a come dire, all'opera, alle poesie e le opere di Malcolm Lowry, lo scrittore di Sotto il vulcano. Sì. Però ecco, è una lettura molto personale e ed è anche una, come dire, una visione, uno sguardo sulla nostra contemporaneità, in particolare su quello che sta accadendo nel nostro paese, insomma. è uno, appunto, lo spettacolo era stato presentato al Festival dei Collini Torinesi qualche anno fa, e il titolo è ispirato a Primo Levi. È una frase che lui attribuisce all'SS, che dicevano: in qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Ecco. Senti Daniele, ecco, questo impegno teatrale è stato una cosa estemporanea, un appuntamento estemporaneo, oppure ha una continuità questa tua passione? Guarda, la mia storia col teatro è una storia intimamente legata con questo gruppo che si chiama Il Buio Fuori, e con cui ho fatto teatro per una decina d'anni. Eravamo molto molto molto underground. Poi abbiamo, dopo questi spettacoli, abbiamo un po' sospeso le nostre attività, anche perché io sono stato impegnato sul fronte cinematografico, diciamo così. Ma è un progetto che in realtà resta sempre aperto, ecco. Se ci dovesse essere l'occasione per ritornare a fare delle cose a teatro, lo farei molto volentieri. È un'esperienza, per me almeno, è un'esperienza molto liberatoria, è molto bella. Bene, allora, una piccola rassegna dal teatro al documentario, al lungometraggio di finzione che arriva fino a Ruggine, è uscito in sala nell'autunno scorso. Daniele, se tu dovessi definire un filo conduttore che unisce questa tua produzione, come ne parleresti? Una domanda istintiva. Ma credo che di fili rossi ce ne siano parecchi. Uno sicuramente è una riflessione sul tema della violenza, sul confronto con la violenza, cosa implica confrontarsi con la violenza. Un tema sterno di tutti i film è in fondo questo: che cosa accade quando la violenza della storia, con la S maiuscola, la violenza meno, come dire, eclatante, viene a bussare alla tua porta. E la tua reazione qual è, e come cambi? Proprio a questo proposito, mi sembra il tuo documentario si focalizzi proprio sull'esperienza culmine della violenza, che è quella della guerra, una guerra vicino al nostro giardino, nei Balcani. Ecco, in quel contesto il tuo documentario come nacque? Ma guarda, io sono appassionato di Bosnia già da moltissimi anni, da più di 10 anni, dopo un viaggio che feci nel 98 a Sarajevo, Mostar. Ho sempre avuto voglia di fare qualcosa da quelle parti, e l'occasione è arrivata 10 anni dopo, tra il 2007 e il 2008, e tra l'altro, insomma, noi volevamo cercare di raccontare la Bosnia di oggi, e la Bosnia di oggi è racchiusa molto bene nel titolo, perché il titolo del documentario, perché uno è portato a pensare che, appunto, Ratan e Cibiti, la guerra non ci sarà, è un riferimento alla guerra passata, e invece erano i titoli dei giornali del novembre 2007, e ci siamo resi conto che anche se eravamo andati là cercando di non voler fare i turisti di guerra, no, ecco, parliamo del presente, non ci siamo accorti che il presente non esiste, perché è una cosa sospesa tra un passato che non passa e un futuro che non parte. Quindi anche con quelli che ti dicono che non vogliono parlare della guerra, dopo 2 minuti sei a parlare di questa cosa. Quindi da una parte è un documentario sulla situazione della Bosnia di oggi, anche se, appunto, il documentario è girato nel 2007-2008, purtroppo non credo che le cose siano cambiate molto, però è ovviamente una continuo andare e tornare da quello spazio, da quel tempo che era la Bosnia tra il 92 e il 95. Oh Daniele, arrivando al tuo ultimo lavoro, Ruggine, con Filippo Timi, insomma un grande attore, almeno per quanto riguarda la scena contemporanea, diciamo, ecco, una sorta di punto di arrivo, visto, insomma, che è l'ultima produzione. Sei soddisfatto dei risultati raggiunti con il film? Guarda, sono molto difficile essere soddisfatti perché il film è uscito a settembre, sì, e purtroppo a settembre-ottobre in Italia sembrava di stare alle Bahamas e nessuno è andato al cinema, ci sono stati dei crolli anche del 70%, quindi diciamo che il film ha risentito di questa, ondata negativa. Devo dire che a Torino faceva caldo lo stesso, ma la gente ci è andata a vedere il film, e se fosse andato nel resto d'Italia come è andato a Torino sarebbe stato un grande successo. E rispetto all'accoglienza, Daniele? Ma rispetto all'accoglienza io son contento, sì, perché comunque è un film che secondo me ha lasciato il segno, ecco. Spero che i film hanno questo di bello, che restano, ecco. Spero che questo film possa riuscire a restare, ecco, nella memoria di chi l'ha visto, ma anche spero che riesca a continuare ad essere un film che la gente, insomma, che provochi interesse nelle persone, ecco. Bene, allora, in chiusura ricordiamo questi appuntamenti romani, e tra l'altro alla tua presenza. Cominciamo con lunedì 6 febbraio alla Libreria Settembrini, la proiezione del tuo documentario, penso sia l'unico in programmazione, vero? Sì, è l'unico in programmazione, sì. Alle 18:30, e poi dal 9 al 12 la rassegna al Cine Club de Tour, anche qui sempre alla tua presenza, se non sbaglio. Sì, forse io cercherò di esserci tutte le sere. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Daniele. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Daniele Gaglianone. Regista Daniele Gaglianone. Visionari su Radio Onda Rossa, proseguiamo con i nostri ospiti. In collegamento con Andrea Zambelli, regista del documentario Tecno, Il respiro del mostro. Pronto? Ciao, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Bene, tu? Bene, bene, dai, a parte la bufera di neve con cui sono immerso anche adesso, però vabbè, normale. Allora, un lavoro presentato, se non sbaglio, a Torino? Il lavoro è stato presentato solo a un festival online che è il Via Emilia Dog Fest. Bene, allora diciamo che dal circuito dei festival ufficiali non ho avuto dei riscontri molto positivi per questo film. Allora, dal Via Emilia Dog Fest, che tra l'altro è il primo festival online di documentari, allora, per chi non sapesse nulla del tuo lavoro, di cosa si parla? Allora, il film nasce da una raccolta di riprese che io ho fatto nell'arco di circa 7 anni, più o meno dal 2003 al 2010, e soprattutto nell'est Europa, cioè quando parecchi sound system hanno cominciato a non voler più fare feste in Italia, ma a cercare di andare a prendersi degli spazi nuovi di agibilità per questo tipo di movimento verso l'est Europa. Il film racconta più o meno questo, racconta più o meno questi viaggi verso est dove i sound system cercavano comunque di portare la cultura della festa libera a dei giovani, dei ragazzi, ecco, che venivano dall'esperienza comunque del sovietismo e che quindi non erano, diciamo così, non erano abituati a questa forma di socialità dal basso. Dal 2003 al 2010, ecco, la cosa mi interessava perché in Italia, insomma, stando alla mia esperienza, le feste, i rave illegali di musica techno nacquero durante i primi anni 90. Come si è sviluppato poi il movimento? Sì. Scusa, non ho sentito la domanda. Come si è sviluppato poi il movimento dopo questi esordi? Ma diciamo che ha raggiunto, diciamo, il suo picco di crescita tra la fine degli anni 90 e i primi 2-3 anni del 2000, dove la scena era veramente grossa, era molto creativa e, insomma, partiva più o meno da dei presupposti che erano anche politici, che erano quella dell'occupazione degli spazi dismessi, della TAF, cioè della zona temporaneamente autonoma. Via via che la scena si massificava, si è assistito a un allargamento ulteriore della scena, però a una perdita di alcuni di quei contenuti originari che perlomeno secondo me erano un po' il fondamento di questo tipo di movimento qua. Quindi una sorta di commercializzazione in questo senso? Sì, diciamo commercializzazione, più che commercializzazione, di standardizzazione della festa. Molte persone che magari fuoriuscivano dalla discoteca e poi raggiungevano la festa non avendo ben presente quali erano i diversi parametri anche di comportamento che ci sono all'interno di spazi dove la socialità è mercificata e diciamo così gestita e controllata da buttafuori a uno spazio dove all'apparenza è totalmente libero e dove è necessario sapersi anche gestire anche in termini di assunzione di sostanze. Ecco. Questa è stata una delle altre cose che secondo me, nel senso che diciamo così, si è perso un po' il controllo, soprattutto dopo il 2002-2003, del utilizzo sensato delle sostanze all'interno di questo tipo di eventi. Ecco, questa deriva rispetto alle droghe, secondo te che ragioni nasconde? Ma c'è da dire che, nel senso, dal 2001 in poi possiamo vedere come tutti i movimenti, non solo il movimento techno, hanno subito una flessione che è una flessione, diciamo così, globale, nel senso che comunque abbiamo assistito dal 2001 ad oggi ad una restrizione degli spazi di agibilità e degli spazi di libertà. Il riflusso riguarda anche per esempio il movimento politico, che da Genova abbiamo visto comunque fare molta fatica e siamo ancora dentro comunque quel tipo di onda lì, e per cui sicuramente c'è la contingenza con un periodo storico che non è stato facile per nessuno. Dall'altra probabilmente una mancata trasmissione di valori rispetto a quello che era la festa tra la prima generazione di fuori e le generazioni che sono venute subito a ruota. Questo probabilmente. Ecco, rispetto invece ai rapporti con le forze dell'ordine, ogni tanto si continua a leggere sui giornali, sui quotidiani, di retate durante proprio questi rave illegali. Ecco, come si è sviluppata la faccenda? Ma guarda, io nel film racconto quello che secondo me è il massimo episodio di repressione all'interno di questo del movimento, che sono gli scontri del 2005 al Czech Tech, dove vabbè il Czech Tech era un po' l'apoteosi del technical, nel senso che era un po' il technical a cui tutti volevano andare per caratteristiche, numeri, vibrazione molto positiva che si creava tra i partecipanti. Tutta questa energia è stata più o meno stroncata nel 2005 quando, nonostante lo spazio poi alla fine fosse affittato quell'anno lì, proprio perché il sound system ha avuto il sentore di una risposta violenta dalla polizia, e la polizia l'aveva caricato indiscriminatamente la festa, causando insomma più di un centinaio di feriti e anche un morto e diversi arresti. E quello secondo me è stato un po' anche un punto di volta anche verso i paesi dell'est di quel tipo di movimento qui. In Italia devo dire che una legge speciale come in Francia non è mai stata varata, però effettivamente negli ultimi anni abbiamo assistito a un intensificarsi delle azioni delle forze dell'ordine. È sempre più difficile conquistarsi uno spazio e riuscire a portare a termine la festa senza problemi, insomma. Questo vabbè, è contingente a un periodo storico dove la repressione è andata aumentando su tutti i settori e quindi inevitabilmente anche in questo movimento qua, insomma. Certo. Senti Andrea, questa migrazione all'estero, in particolare all'est, che direzioni ha fatto prendere a questo fenomeno? Ma di sicuro ha creato delle belle relazioni tra le realtà italiane e le realtà europee e i sound system europei che operavano in questo movimento. A livello personale posso dire che c'era anche la fascinazione comunque di esplorare il mondo post sovietico che stava cambiando, e insomma c'era tutta una sensazione legata proprio agli spazi, per esempio in Ucraina a passare davanti statue in bronzo di 10 metri di Lenin in parte al McDonald's, oppure vedere questi cozzi delle cooperative agricole abbandonate, questo cirillico, questi falce martello in ottone ancora molto presente. Sicuramente c'era una fascinazione anche di tipo estetico rispetto a quel tipo di viaggio lì, e sembrava comunque di battere un territorio inesplorato per quanto riguardava proprio la cultura della festa libera, del divertimento, mentre invece magari in Europa aveva vissuto la stagione del movimento hippie, poi la stagione dei travelers, invece ecco in Unione Sovietica, nei paesi che erano dell'Unione Sovietica si assisteva proprio a un gap rispetto a queste tematiche, per cui c'era la volontà comunque di far vedere ai giovani, alle persone, che era possibile costruirsi una socialità libera al di là della mercificazione, soprattutto nei spazi dove l'industria del divertimento nei paesi dell'ex blocco sovietico è stata totalmente fagocitata dalle mafie, insomma, in particolare la mafia russa e la mafia bulgara, che in tutto l'est Europa controllano comunque le discoteche, controllano comunque i luoghi della socialità. Andrea, in chiusura, sì, dal punto di vista dell'espressione artistica, ha prodotto e continua a produrre questo fenomeno un'espressione culturale? Ma sicuramente tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 ha sicuramente prodotto molto in questi termini. Adesso posso dire che, come dire, la vedo un po' più arrestata, un po' più, diciamo, un po' più che gira un po' più intorno a se stesso. Io ho fatto questo film anche perché mi sembrava comunque doveroso produrre qualcosa che parlasse di questo tipo di movimento, visto che comunque attraversa comunque bene o male 15 anni di storia, e mi ero reso conto che comunque c'era una difficoltà di autorappresentazione del movimento, perché un lavoro documentario, diciamo così, lungo, completo su questo tipo di tematiche non era mai stato affrontato, perché mi trovavo comunque con una settantina di ore di girato molto particolare nel cassetto e c'era comunque la necessità di produrre un prodotto culturale che potesse servire sia a chi ha già fatto questo percorso in termini di elaborazione e memoria, sia per le nuove, soprattutto per le nuove generazioni, che avessero una sorta di vademecum, tra virgolette, per capire da dove arriva questo movimento qua e per capire possibilmente che direzione che si sarebbe potuto sviluppare in futuro. Ecco, anche quello che si diceva prima, no, del mancato passaggio di testimone tra la vecchia generazione dei festaioli e le più nuove. Ecco, questo lavoro voleva essere anche una sorta di prodotto culturale che potesse servire a queste nuove generazioni, in modo da capire che non è che nasce dal niente o, insomma, che ha delle radici culturali, storiche e politiche ben precise che è giusto conoscere, insomma. Senti, in chiusura, come mai questo titolo, il respiro del mostro? Ma è una frase che ci ripetevamo i primi anni quando si andava a ballare, che il sound system sembrava una sorta di mostro, no? Una sorta di mostro che respirava, un essere quasi trascendente, dotato di vita propria. E in più, in un'intervista, un ragazzo mi ha ribadito questo concetto, mi ha ribadito proprio... c'è proprio la frase che dice: è un mostro che respira il sound system, e mi sembrava un titolo evocativo e anche vagamente minaccioso, mi piaceva. Senti Andrea, dove si può cercare in rete qualche informazione su questo tuo documentario? Ma allora, vabbè, la casa di produzione di riferimento è Rosso Fuoco, in più le copie sono in vendita in alcuni negozi che si occupano di veicolare quello che è la musica e la cultura prodotta dall'underground techno movement, e poi vabbè, adesso il film è postato anche su YouTube. Benissimo, allora si può cercare tranquillamente. Andrea, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, buon lavoro e andate avanti così. Ciao. ciao. Andrea Zambelli, regista del documentario Techno, il respiro del mostro. Ben ritrovato Valerio Ialongo su Radio Onda Rossa, Visionari, eccoci qui. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Abbastanza, a parte il tempo, la neve che incombe. Allora, con te per parlare di... ti chiamiamo in rappresentanza dei 100 autori per la presentazione di questa rete degli spettatori che sarà oggi alla Casa del Cinema qui a... No, sarà domani è venerdì alle 11. Ah, è vero, allora ho sbagliato data, avevo messo due, invece è venerdì. Benissimo, allora raccontaci un po' di cosa si tratta. È un progetto di un'associazione creata proprio per questa iniziativa, che si chiama appunto la Rete degli Spettatori, ed è un'associazione che cercherà di portare un cinema di qualità, un cinema indipendente nelle scuole e in tutte quelle realtà come i cinema della periferia, della provincia, dove un certo tipo di film fatica ad arrivare, perché pensiamo che in questo momento sia importante mantenere una conoscenza della diversità, della pluralità, dei punti di vista, dei linguaggi, dei generi. E quindi abbiamo i 100 autori hanno incaricato una commissione fatta da 6 esperti, che sono Alberto Barbera, Morando Morandini, Gianni Canova, Jean Gilly, Fabrizio Grosoli e Federico Pontigia, di scegliere un certo numero di film che a loro parere fossero meritevoli di una maggiore diffusione e che rappresentassero appunto la diversità, la ricchezza di un cinema un po' sommerso e indipendente. Ecco, quindi questa è un po' l'ispirazione che ci guida. Senti Valerio, nella breve scheda di presentazione di questa iniziativa leggevo anche i dati riportati, ossia relativi alla chiusura di molte monosale in questi ultimi anni in Italia. Ecco, che direzione sta prendendo il cinema su grande schermo? Purtroppo diciamo che fino adesso la politica non ha voluto prendere coscienza che l'apertura dei multiplex ha un impatto molto molto preoccupante, non soltanto sul cinema, perché chiaramente, come sappiamo tutti, il cinema di qualità fatica a entrare nei multiplex, ma anche proprio sul tessuto urbano e la vita civile dei nostri centri abitati, perché chiaramente quando apre un grande multiplex in periferia, specialmente nelle città medio-piccole, la sala tradizionale che ha dato vita al centro storico, che mantiene aperta i negozi e la vita culturale anche in orari serali, chiude invariabilmente. Mm-hmm. E quindi i centri storici che hanno anche una loro bellezza, una loro storia, si spopolano specialmente dopo una certa ora e comunque vengono deprivati di quella componente di vita culturale che è essenziale, insomma. Un altro elemento è quello del rispetto alla differenziazione, come dicevi tu poc'anzi, dei film. A fronte di una grossa mole di produzione, le sale sono poi alla fine invece monopolizzate da pochi titoli che escono in centinaia e centinaia di copie. Ecco, in questo senso? Beh, è esattamente l'altro lato, esattamente toccato l'altro lato del problema, cioè il fatto che queste sale, per esempio, non so se probabilmente il grande pubblico non sa che ormai la programmazione delle sale non è più libera in Italia. Cioè il singolo esercente non può scegliere i film che proietta sostanzialmente, perché gli vengono imposti da distribuzioni più potenti. E la cosa diventa ancora più evidente poi quando parliamo di grandi circuiti come The Space, che è del gruppo Mediaset Benetton, o UCI, che è un gruppo americano, che possiedono insieme quasi 800 sale in Italia, 800 schermi, scusami, quasi 800 schermi, e quindi sono in grado di controllare il mercato, insomma, di comunque imporre le loro leggi, insomma, sul mercato. Una nuova iniziativa dei 100 autori, ti chiedo com'è lo stato delle cose al momento rispetto alle vostre rivendicazioni? Ma intanto ci tengo a dire che i 100 autori appunto sono un'associazione che condivide con la rete degli spettatori alcune scelte di fondo culturali e politiche, ma sono due associazioni assolutamente indipendenti. Sì. 100 autori rivendica, diciamo, la scelta di questa commissione, i criteri che improntano questa scelta, dopodiché la rete degli spettatori agirà per gestire il progetto in maniera autonoma. Ma la situazione di emergenza, no, in campo nazionale su questioni apparentemente molto molto più centrali fa sì che poi ogni volta che si parla di cinema o di televisione, con l'eccezione del telegiornale, che è l'unica cosa che interessa molto ai politici, si fa fatica a trovare ascolto, no? Soprattutto nel governo precedente, essendoci un conflitto di interessi talmente gigante che aveva creato un blocco. Noi abbiamo appena presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un nostro studio sulla situazione della televisione in Italia e con delle nostre proposte sulla RAI, e speriamo che questo governo riesca a mettere nella propria agenda questioni culturali, questioni legate, si parla molto di liberalizzazioni, ecco, il nostro settore non è libero, perché il mercato è fortemente influenzato da dei soggetti e da delle strutture che non sono mai state affrontate, quindi speriamo che questo governo possa, per quanto limitato, fare qualche intervento rispetto a questo duopolio di fondo, insomma. Ma sì, non è solo il duopolio, è per esempio la presenza di una rete come Sky, che agisce in sostanziale regime di monopolio con il suo decoder, per esempio, e mentre in Francia la televisione via satellite, visto che trasmette moltissimo cinema, finanzia poi il cinema francese, in Italia questo avviene in maniera molto molto marginale, in maniera quasi risibile rispetto ai 5 milioni di abbonati di Sky. Quindi queste disattenzioni della politica, che poi guarda caso sono sempre a favore dei grandi gruppi, no, che hanno un forte potere di ricatto, perché magari hanno telegiornali, perché magari muovono grandi masse di denaro, queste disattenzioni poi pesano sul lavoro, no? Noi abbiamo una contrazione enorme sul lavoro delle troupe, dei registi, degli sceneggiatori, degli attori, dovuto a queste disattenzioni, a questa distrazione costante della nostra politica, che favorisce i potenti e sfavorisce poi l'interesse del paese, perché poi una televisione e un cinema sani fanno bene al paese per tanti motivi, non solo per un motivo economico, ma soprattutto per quello culturale e artistico. Quindi speriamo che questo lentamente, questa sensibilità e questa attenzione si risvegli nei nostri politici. Bene, allora Valerio, ricorda l'appuntamento di domani. Sì, domani presentiamo la rete degli spettatori, che è appunto un'associazione nuova che si propone di diffondere la cultura e il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo anche tra i giovani, nelle realtà dove in questo momento molti film indipendenti non riescono ad arrivare, e ci presentiamo alla Casa del Cinema domani alle 11. Bene, allora un abbraccio Valerio, a risentirci presto. Un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao. Questo era il regista Valerio Ialongo, continuiamo. Al telefono con Angelo Amoroso d'Aragona, regista del documentario Io e la mia sedia, che sarà proposto a Contest, al nuovo cinema Aquila, il 6 e il 7 febbraio. Ben trovato, Angelo. Buon pomeriggio a tutti, o buon appetito, devo ancora mangiare. Allora, di cosa si parla? Qual è il tema di Io e la mia sedia, il tuo documentario, che ho avuto modo di vedere e poi tra poco ne parleremo? Ora sono in ansia io per sapere cosa ne pensi tu. Si parla di Enzo Del Re, questo straordinario cantastorie, cantautore e anche, diciamo, agitatore politico degli anni, di tre decenni, dagli anni 60 sino all'inizio degli anni 80. E tra l'altro devo dirti che, se ricordo bene, Enzo Del Re sono anche nel centro sociale in cui facevo politica a metà degli anni 90, insomma erano anzi gli inizi degli anni 90, qui a Roma, e quindi ho avuto modo anche di averlo ospite. Sicuramente Per una radio storica come voi non dubitavo di questi passaggi di Enzo, diciamo, perché sicuramente ha frequentato anche i vostri circoli. Senti, sicuramente un personaggio sui generis, anche dal punto di vista musicale, oltre che di rigore politico, di cui però si è persa praticamente traccia rispetto alle nuove generazioni. Ecco, rispetto a questo aspetto, che riflessioni hai fatto portando avanti questo tuo lavoro? Beh, questo un po' è una ferita aperta, perché in realtà mentre noi realizzavamo il documentario, Enzo stava tornando, come dire, in vita come autore. Infatti lui ha avuto anche dei momenti di grande felicità, e io ricordo ancora con grande commozione il ritorno da Roma dal 1° maggio, in cui lui sentiva fino a, infatti poi se hai visto il documentario c'è questo momento in cui lui dice sì. Mi hanno scoperto a 60 anni, vabbè, meglio che niente. perché avere insomma una piazza così piena e riuscirla a dominare solo con una sedia, io ho tremato per lui quando l'ho visto uscire così piccolino sul palco con la sua flemma. Lui non gli faceva paura niente, appunto, neanche 700.000 persone. Però voglio collegarmi a quello che ho appena sentito, perché l'esperienza del documentario sta proseguendo come esperienza di crowdfunding, che è una tecnica appunto di coinvolgimento degli spettatori nel decidere che cosa va prodotto, perché c'è stato commissionato, però poi la scoperta del personaggio ci ha fatto innamorare, ci ha costretto a pedinare Enzo, pedinare e accompagnarlo, perché eravamo diventati suoi angeli custodi, e quindi tutti i concerti eravamo noi ad accompagnarlo, e quindi il documentario ha preso corpo, che ci siamo autosovvenzionati, e al momento non siamo in grado di distribuirlo per una ragione di costi, perché abbiamo tanti repertori da dover pagare. E allora stiamo facendo questo crowdfunding, che vuol dire finanziamento di massa, e questo esperimento era già iniziato in Puglia nella rete Recidivi, che è molto molto vicino a quell'idea che ho appena sentito esporre della rete degli spettatori, perché noi sicuramente poi riprenderemo i contatti con la rete degli spettatori per metterci su questa linea d'onda, che ci sembra molto giusto come discorso. Senti, dal punto di vista artistico sicuramente un personaggio a sé stante, che non disdegnava l'utilizzo del dialetto, e che come percussione usava la bocca e una sedia. Il linguafono, esatto. E dall'altro l'impressione, per chi lo conosce e l'ha conosciuto dal punto di vista artistico ma anche umano, e anche vedendo il documentario, è che si tratti comunque dal punto di vista umano di un personaggio un po' ruvido. Molto ruvido, ma come se tu hai potuto notare, noi abbiamo cercato di darne il lato molto anche però umano, e di una persona che può ispirare grandissima simpatia. Bisognava superare una certa scorza di durezza, che probabilmente era sicuramente dovuta però anche alla grande sofferenza, perché lui era purtroppo venuto meno proprio a causa della malattia, era in dialisi un giorno sì, un giorno no, era costretto ad andare in ospedale, questo lo faceva soffrire tantissimo, gli levava molta energia. Lui era famoso per fare concerti, lui smetteva di suonare quando andava via l'ultimo spettatore, doveva stare ancora 5 minuti da solo e poi smetteva. Ecco, era la sua etica. Esatto. Tu immagina cosa voleva dire per lui avere un quarto d'ora di fiato e poi sentirsi la fiacca addosso. Sì. Proprio dal punto di vista dell'etica, ecco, questo suo estremo rigore, sia artistico che politico, gli ha complicato parecchio anche la vita. Molto, infatti ora questo discorso che stiamo facendo, del finanziarsi da solo, dello spettatore che sceglie cosa vedere, beh, Enzo da questo punto di vista è un'icona. Lui, io fino a un certo punto penso che lui abbia sofferto, lui ha fatto delle scelte così estreme, voglio dire, non si è mai fatto pubblicare un disco. Lui andava a registrare a Firenze e poi andava a incidere il vinile a Milano, faceva tutto da solo. è tutto in mono, perperché all'epoca per lui gli operai avevano il mono a casa, quindi niente stereofonia, che sarebbe stato un grande, per come tu hai sentito Enzo inciso, fatto in stereofonia, sarebbe stato grandioso, no? Per l'uso che fa della sedia e della lingua, insomma, per l'uso, insomma, una polifonia di suoni usciva dal suo corpo e dai suoi gesti, ma lui sceglieva di farlo in mono e senza un editore. Ora, riuscire per 3 decenni a essere sulla scena, perché lui è stato con Dario Fo, poi è stato uno dei protagonisti della stagione dei Circoli Ottobre. Ma vero protagonista, ce lo racconto nel documentario, io poi ho raccolto anche altre testimonianze, non so, Sergio Martin che organizzava, quindi lui ha suonato insieme a Napoli Centrale quando c'era Pino Daniele, agli Area, Francesco De Gregori, cioè è incredibile, no? Sì, per un personaggio che si autoproduce tutto. Sì. Tra l'altro di matrice libertaria. Decisamente anarchico, libertario, internazionalista, questa è la sua definizione. Sì, tu hai richiamato il suo rigore politico, che è un aspetto anche di fascinazione, ma vuol dire anche un aspetto, diciamo, di grande coerenza. Lui, io insistevo con lui perché si reincidessero alcuni suoi dischi storici come Il Banditore. E lui diceva: no, ma devo riscrivere La Rivoluzione, il brano La Rivoluzione, perché lì io, diciamo, sbaglio alcune frasi, c'è Ho Chi Minh, devo levare Ho Chi Minh, perché io sono anarchico internazionalista, non credo più in certe altre rivoluzioni, quindi insomma, diceva, vabbè, quello però l'hai scritto nel 74, quindi appartiene alla storia, no, io non canto ciò in cui non credo, quindi la devo riscrivere. Bene. Questo per dire, cioè io rimasi, cioè, senza parole, perché Lenzo ti lasciava così, senza parole. Sì. Aveva una logica ferrea e tu non sapevi cosa controbattere. Anche ecco. Rispetto ai mezzi tecnici, nel documentario si vede anche lui alle prese con le musicassette, insomma, non era certo attento alle nuove tecnologie. Questo è un peccato, perché infatti eravamo a Sanremo per il premio Tenco e lui fece fermare l'auto e disse: vedi quell'insegna, c'è scritto dissi nastri, quindi non è vero quello che tu dici, che i nastri non si usano più. Però io cercavo di dire: guarda che vivi nell'era in cui c'è, cioè, veramente la tua era, perché tu oggi che ti sei sempre autoprodotto hai la possibilità di farti i CD e esatto. Metterli in distribuzione, se ragioniamo. E ci saremmo arrivati, io penso che ci saremmo arrivati, perché poi lui invece era assolutamente, non era un tradizionalista, cioè era una persona capace comunque di stare al passo. Mm-hmm. E quindi a me veramente c'è una sofferenza pensare che nel momento in cui si poteva riprendere e invece c'è stato questo episodio che, insomma, l'ha portato a morire. Tra l'altro il 22 giugno a Mola, forse la cosa che lui ha sempre più desiderato, lui rifiutava di suonare a Mola perché diceva: io non suono per 50 o 100 persone nel mio paese, io voglio la piazza piena, e la piazza piena l'abbiamo avuta il 22 giugno per ricordarlo. Con tantissime, cioè con 1000 persone che non si sono mosse dalle 9 di sera fino alle 2 di notte. Ecco, proprio a questo proposito, Angelo, per chi volesse saperne qualcosa di più, esiste un archivio delle produzioni di Enzo? Io mi sto facendo, diciamo, promotore di questa idea di creare una fondazione. Diciamo, chi, per esempio, hanno fatto a Savona una cena sociale per il mio documentario, anche con l'idea appunto di sostenere questo progetto, e hanno raccolto in cena sociale, un'associazione di partigiani di Savona, ha raccolto 500 euro. Io non sono arrivato a raccogliere ancora molto, però testimonianze del genere ti sciolgono il cuore, no? Cioè, certo. Che in Valbormida, cioè, faccio un'iniziativa così per me. Sì, io penso che debba essere, che è dovuto, perché quello che diceva Monio Vadia quando ha scritto di lui dopo la morte, che lui è un poeta di 1000 anni, penso sia la definizione più bella di Enzo. Ci sono le sue canzoni in molese. Sì. Che durano 5 ore, una canzone che dura 5 ore racconta tutta la storia e la leggenda di Mola in dialetto molese. Cioè, su 5 audiocassette, cioè una produzione degli anni 90, dove si parla dai carciofi alle leggende mitologiche, tutto. Senti Angelo, in chiusura ricordiamo questo appuntamento a Contest qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, lo ricordi tu? Sì, c'è questo contest di quest'anno che è dedicato alla memoria e dopo, diciamo, un omaggio dovuto a Vittorio De Seta e, diciamo, lunedì e martedì iniziamo appunto con Io e la mia sedia. Per me sarà anche l'occasione appunto di fare crowdfunding, quindi chiedere, diciamo, un contributo di partecipazione agli spettatori, alla produzione. Chiunque, diciamo, mi dà un contributo, io poi non solo prometto, realizzo un DVD che viene come una sorta di preacquisto, però si diventa coproduttore, quindi si viene citati nei titoli del documentario. E se il 7 alle 21 al Nuovo Cinema Aquila, e posso dire che il 6 mi farà onore di essere presente anche Cecilia Mangini. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e sì. Ci si vede al Cinema Aquila. Cinema Aquila, ore 21. Grazie. Ciao Angela, un abbraccio. Ciao. Angela Amoroso d'Aragona, regista del documentario Io e la mia sedia, all'interno di Contest al Nuovo Cinema Aquila il 6 e il 7 febbraio prossimi, la prossima settimana. Per non darti il sottofondo. Eccoci, allora, abbiamo anche il sottofondo. Giorgio Gosetti, presidente dell'Associazione Festival Italiani di Cinema, che sarà uno dei relatori all'incontro Cosa significa fare festival e cultura cinematografica oggi in Italia, la case history della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Il tutto alla Libreria del Cinema qui a Roma, a Trastevere, a Via dei Fienaroli, oggi 2 febbraio, giusto? Esatto. Allora, intanto ben ritrovato, Giorgio. Grazie a voi. Allora, sei riuscito a risolvere i tuoi impegni? Ti ho chiamato al momento giusto, intanto? Vi ringrazio molto. Oh. Vi ringrazio. Erano impegni del tutto, come dicevo una volta, per fatto personale. Allora, dici un po', anticipa un po' qualcosa rispetto a questo incontro. Dunque, i risultati, i dati esatti relativi alla case history di Festival di Pesaro, la mostra del Nuovo Cinema, li conoscerò, come del resto domani sui giornali forse potrete conoscerli anche voi che ci ascoltate, nel senso che non li so in anticipo. So quello che abbiamo fatto, sì. Ed è il passaggio intermedio di una grande scommessa fatta dalla IULM, la Libera Università di Milano, insieme all'AFIC, cioè l'Associazione dei Festival Italiani di Cinema, e con il contributo dei ricercatori della MACNO, che è un'agenzia di statistiche di rilevazione sul campo di Milano. Cioè, abbiamo provato a fare una cosa che non si dovrebbe quasi dire nella nostra cultura, cioè a cercare di individuare qual è il valore economico della cultura. Questo è un paese in cui tutti hanno sempre detto che la cultura è un giacimento, che c'è il petrolio che scorre nelle vene delle nostre città d'arte. Però dopo esserci un po' riempiti la bocca di queste belle frasi, cercare di confrontarsi con il mercato senza diventare ostaggi del mercato e dare un valore a tutto quello che compone una manifestazione culturale, un'iniziativa come può essere un festival di cinema, è un'altra faccenda. Anche per quanto riguarda, scusa Giorgio, ma anche in termini per esempio di posti di lavoro è un discorso molto interessante. È un problema di posti di lavoro, è un problema di ricaduta sul territorio, ma è anche un problema di pesare quanto conta l'immagine, quanto conta la ricerca, quanto conta la cultura e la promozione nel nostro campo cinematografica, sì. Quanto conta l'insieme di posizionamento, per esempio, di un luogo in cui si svolge un festival. Io mi permetto, e non si offenderanno i miei concittadini udinesi, di dire che se oggi uno va in giro per l'Asia estrema, dalla Cina alla Corea, dalle Filippine al Giappone, e domanda Italia, gli rispondono, almeno nel settore del cinema e dell'audiovisivo, Udine. Perché a Udine si tiene ogni anno il Farist, che è un eccellente festival dedicato completamente a quel tipo di cinematografia. Sì, sì, sì, sono sì, sicuro sì. Che se 10 anni fa avessimo interpellato qualsivoglia signore coreano di qualsiasi livello culturale o professionale, gli avessimo domandato Italia, avrebbe risposto Firenze, Venezia, Roma, Napoli, ma Udine mai. Questo conta, questo è un valore, certo, oggettivamente. Certo, certo. Senti Giorgio, io ti avevo dato anche indicazioni per partecipare al simpatico gioco che noi conduciamo all'inizio di ogni anno. È passato un mesetto, però insomma siamo entrati adesso nel secondo mese del 2012. I titoli dei film usciti in sala del 2011, se ne può ancora parlare? Che mi sono rimasti negli occhi. Sì. Esatto. Tra l'altro tu mi hai mandato un SMS o una mail, non mi ricordo, e proprio in merito a quella trasmissione in cui ci esprimemmo un po' tutti, eravamo più di 10 tra colleghi ed amici sulle cinquine dei migliori film a nostro avviso della scorsa stagione. Sì. E quindi mi interessava anche la tua opinione a questo punto. In parte sono rimasto fedele, in parte ho fatto un po' di gioco a lato. Voglio fare solo una brevissima premessa, cioè che poi se dovessimo guardare i film del 2011 è corretto parlare di quelli che sono usciti in sala in Italia, perché per esempio un film molto molto importante, ancorché indigesto, come è Il cavallo di Torino, Turning Horse, di Bielatar, non figura e non può figurare in una classifica di questo genere, pur essendo un film del 2011, perché non è uscito, non è stato ancora comperato per l'Italia, speriamo che succeda prima o poi, e lo dico per ragioni di parte, essendo il direttore del Noirin Festival di Courmayeur, il film che ha fatto molta sensazione quest'anno, che è Margin Call, che è un'opera prima che si era vista al Festival di Berlino e poi a Courmayeur, esce però in sala fra aprile e maggio del 2012, quindi non rientra nella casistica. Sì. Allora la mia cinquina secca oggi la possiamo raccontare così. Miracolo alle Havre, sì, di Aki Kaurismäki. Ok. Una scelta più scontata, ma di grande affetto e di grande stima per il coraggio, Habemus Papam di Nanni Moretti. Sì. Una rivelazione per giocare in casa, di nuovo, qui lo dico pensando alle giornate degli autori, alla Mostra di Venezia, Io sono lì di Andrea Segre, sì, che peraltro mi piace segnalarlo così come Miracolo alle Havre, perché sono due piccoli miracoli di tenitura cinematografica nelle nostre sale, oltre tutte le logiche commerciali abituali. Eh sì, sicuramente. E poi non ho dubbi su un quarto film che invece è il contrario, cioè un film che nessuno ha visto praticamente e che io continuo a considerare fra i più importanti anche dal punto di vista civile del 2011, cioè The Conspirator di Robert Redford. Su questo ci siamo, allora eravamo gli unici in questo gruppo di amici e colleghi a calcolare anche il film di Robert Redford. Io non riuscirò mai a capire quella che a mio parere, dico presuntuosamente, è una cecità della nostra critica e a rimorchio anche del nostro pubblico di fronte a un film che dice con parole cinematografiche qualche cosa che oggi ha un particolare senso anche come società civile. Certo. Sul quinto titolo ci si può dividere, se ne possono secondo me mettere tanti, mi viene voglia di assecondare il mio gusto per il cinema americano dicendo Lady di Marzo, per esempio, di George Clooney, sì, perché penso sia un film forte, compatto, ben scritto, ben interpretato, importante anch'esso. Però mi viene voglia anche di ricordare il coraggio di Paolo Sorrentino con This Must Be the Place, perché è un film che rimane nella memoria e secondo me rimarrà più di quanto possa essere definita la sua riuscita assoluta o meno, insomma. Okay. E non solo per Sean Penn, proprio lì c'è un grande coraggio anche del regista. Quindi diciamo potresti citare tutti e due, Clooney e Sorrentino come quinto... Un ex aequo. Senti, visto in lingua inglese. Italiani ce li abbiamo messi, e un documentario? Un documentario, questa è stata un'annata complicata e i documentari poi non si sa mai se uno li ha visti o non li ha visti, mi pare logico ricordare per esempio La bellezza del lavoro di Paolo Rosi, perché Rosi e Studio Azzurro lavorano particolarmente bene, e se poi dovessi guardare alle tante cose che abbiamo visto circolare anche a Venezia, per esempio, vorrei dire una parola per il documentario più divertente, anzi è un mockumentary, si chiama Il Mondiale Dimenticato, Della meravigliosa storia di un mondiale di calcio che forse si sarà giocato e forse no nell'Argentina durante la guerra mondiale, da un'idea di Osvaldo Soriano. Tra l'altro anche Valerio San Marco lo aveva citato come titolo documentario. È particolarmente divertente, sì. Spero che abbia una bellissima carriera anche internazionale, perché se lo merita. Bene Giorgio, allora in chiusura ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi alla Libreria del Cinema qui a Roma, ricordalo tu. Eh sì, alle 19 a Via dei Senaroli, la Libreria del Cinema, la presentazione della Case History, su quanto è il valore oggi di uno storico evento culturale particolarmente importante come la Mostra di Pesaro. Io sono fra quelli che andrà lì per dire: guardate che siamo di fronte a un vero e proprio bene culturale che va tutelato, rinnovato, trasformato, fruito e che dimostra splendidamente come la cultura sia un valore. Giorgio, io ti abbraccio, ti do appuntamento alle prossime volte qui a Visionari. Grazie e buonissimo lavoro, complimenti davvero. Grazie, ciao Giorgio. Ciao. Giorgio Gosetti, presidente dell'Associazione Festival Italiani di Cinema. Bene, siamo in collegamento con Francesco D'Ascenzo, regista del documentario Rughe. Ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Tutto bene? Tutto bene, sì. Si lavora. Allora, mi era arrivata un po' di tempo fa questa mail che mi presentava il tuo documentario. Dopo un po' ho deciso di parlarne, perché chiaramente avevo un sacco, c'ho sempre un sacco di ospiti, però ho detto l'ho tenuto fermo come impegno. Raccontaci un po', Rughe, di cosa si parla? Allora, è un docufilm sperimentale. Ho voluto fare questa sperimentazione raccogliendo tutte le emozioni in interviste di Lelio Luttazzi, Gregoretti, De Gemini, Ceperti Caroli, il pianista, Tamponi, Fabor, Tommasi, il maestro Pregaddio e Pagano, sì. Attorno a questo documentario in cui devo dire che si sono regalati moltissimo questi grandi personaggi della musica e del cinema, Gregoretti. Ho voluto raccogliere le emozioni che mi hanno regalato in queste interviste con una parte sperimentale che ho costruito, quindi diciamo un docufilm abbastanza innovativo, perché ho voluto rivoluzionare anche un po' la stessa idea che si ha dell'intervista documentaristica, facendo proprio non un'intervista solita di domande e risposte con i personaggi dell'intervistato e dell'intervistatore, ma lasciando liberi questi personaggi di raccontare le loro esperienze, i loro pensieri. E intorno ho costruito una parte filmica, tra virgolette, un racconto, una fiction abbastanza molto sperimentale in bianco e nero e a colori. Senti, la scelta di questi personaggi su cosa si è basata? La scelta è innanzitutto, io guarda, penso questo, che non si può non rimanere incantati da queste facce, dalle loro voci, dal loro modo di esprimersi e dal loro modo di raccontare le loro esperienze. E naturalmente da quella libertà che credo che in fondo solo la vecchiaia può regalare. Lì si arriva a un punto in cui credo che l'uomo è davvero libero di dire, di fare, di incantare spudoratamente. Nessuno si è nascosto davanti a questo obiettivo, che può essere spesso invadente, infatti lo è stato anche nella scelta di regia. Ho cercato di entrare nella carne di questi personaggi, non di catturarne solo le parole, facendone una velina, facendone una visione anche abbastanza fredda, ma l'obiettivo era quello di entrare nei loro corpi, nelle loro emozioni, e per questo anche Rughe, infatti, si scendo molto nei segni che il tempo ha regalato a loro e loro hanno regalato a noi. Ecco, proprio a proposito, scusa Francesco, sì, di questo titolo, Rughe sta anche a intendere una capacità espressiva, immagino. Sì, ho voluto fare proprio questa ricerca sulla piega, tra diciamo anche un discorso un po' ispirandomi in qualche modo, creando un concetto partendo da quello che Gilles Deleuze chiamava la piega e il rizoma. Infatti ho cercato di fare un film rizomatico, un film che si divida a strati, che si può leggere dall'inizio alla fine, si può vedere dalla fine all'inizio, a metà, si può seguire l'intervista e la storia che più si predilige, quindi da una parte ho cercato di fare del film una ruga, e sia con le rughe dei protagonisti, poi ho fatto una sperimentazione sul mio volto e questa è la parte insomma sperimentale filmica all'interno del docufilm, in cui ho fatto un lavoro che già era stato fatto da un altro artista, Urs Liuti, appunto invecchiarmi pittoricamente in maniera proprio artistica falsa dalla mia giovinezza fino alla mia anzianità, quindi di un presente assente all'interno della ruga. Senti, rispetto ai presupposti e ai risultati di cui ci hai parlato, cosa ti ha portato questo viaggio? Ma il piacere di fare cinema. Credo che io non ho alcuna velleità di dire qualcosa o di fare qualcosa se non il puro divertimento, il puro piacere di fare cinema. Non ho altre aspirazioni, diciamo, quindi tutto ciò che mi può regalare fare questo è il solo piacere di farlo, effimero. Senti Francesco, dove è possibile saperne qualcosa in più su internet? Dove è possibile vederlo se ci saranno prossime proiezioni? Cioè, il film è stato stampato dalla Regione Lazio, assolutamente così inaspettatamente, essendo un'autoproduzione non mi aspettavo che in questo momento storico in Italia qualcuno potesse avere l'interesse nei confronti di un giovane regista nei propri lavori sperimentali. Invece la Regione Lazio lo ha stampato, è stato presentato all'ex GIL un po' di tempo fa. Più notizie si possono trovare sul sito internet www.eradea.it, che è la produzione seguita da Rosa Di Brigida, che ha avuto sicuramente un importante ruolo all'interno della realizzazione del film. Il sito è www.eradea.it, dove ci sono più informazioni, e chi vuole può anche scriverci e noi saremo ben felici di inviarlo gratuitamente nelle case di chi è curioso di conoscere questa sperimentazione cinematografica. Benissimo. Allora Francesco, ci sentiamo per le prossime cose. In bocca al lupo. Grazie. E a presto. Buon proseguimento. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E questo era Francesco D'Ascenzo, regista del documentario Rughe. Andrea Boretti, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, con te che sei regista del documentario Con le ruote per terra, parliamo proprio di questo tuo lavoro. Se ricordo bene, si parla di handicap. Esatto, si parla di handicap e si parla di sport, in verità. Infatti il film racconta, diciamo, l'epopea della nazionale under 22 di basket in carrozzina che nel 2010 ha partecipato agli europei di categoria, appunto. Andrea, come è partito il progetto? Il progetto è partito sei mesi prima, quando il mio collega Carlo, perché la regia l'ho curata io, ma come autori firmiamo in due fondamentalmente, ha saputo appunto del fatto che vicino a Milano, a Seveso, si sarebbero tenuti gli europei appunto di basket in carrozzina. A quel punto ci siamo avvicinati alla società che organizzava gli europei e poi alla nazionale, e con il loro benestare, perché ovviamente entrare in uno spogliatoio è sempre una questione delicata, soprattutto in una situazione come questa, no? Con ragazzi che disabili, abbiamo cominciato, subito dopo abbiamo cominciato. Senti, parla di aprile e siamo andati avanti fino a luglio, quando appunto ci sono state le finali, insomma. Senti, con quali presupposti hai cominciato a muoverti e poi come si è modificato, magari se si è modificato il tuo atteggiamento nel corso delle riprese? Ma guarda, all'inizio devo dirti che ero abbastanza preoccupato. La prima volta che sono andato a vedere una partita di basket in carrozzina, perché sì, avevo visto qualcosina su internet, ma insomma non mi ero mai avvicinato a questo tipo di sport. non sapevo come i ragazzi avrebbero potuto reagire, insomma, ad un'intrusione di questo tipo, no? Le telecamere in camera, nello spogliatoio, durante gli allenamenti, durante le partite, le interviste, no? Su tutti gli argomenti che magari più intimi anche loro. Devo dire che con mia grande sorpresa, cioè le mie paure erano assolutamente ingiustificate, in quanto abbastanza velocemente loro si sono sciolti e siamo diventati amici nel giro di una settimana. Oh Andrea, una curiosità, probabilmente quella più grossa mia in questo momento. Le due filosofie, le due diverse filosofie della partecipazione e del vincere rispetto allo sport da chi vive una condizione di handicap, ecco, come sono affrontate? Allora, sicuramente anche a loro non fa piacere perdere, devo dire che la vittoria quando è arrivata, loro, diciamo che in questi europei partecipavano 9 nazionali, loro si sono arrivati sesti, ed è il più grande risultato di questa nazionale da sempre, da quando esiste, perché fino ad allora non avevano praticamente mai vinto una partita. Devo dire che la vittoria, comunque, l'essere arrivati, di aver raggiunto questo traguardo, che per quanto a livello mondiale può essere mediocre, a livello italiano è veramente un grandissimo risultato, non è stato tanto importante per me quanto capire che per loro lo sport è molto più importante della vittoria stessa. Cioè, quello che cerco di far passare nel documentario, e andando in giro in questo anno e mezzo mi sembra di essere riuscito a trasmettere, è che non abbiamo voluto considerarli come ragazzi disabili che giocano in uno sport come fosse un passatempo, un qualcosa per riempire i momenti di tristezza, no? Tra una cosa e l'altra, ma tutt'altro, sono persone vere e proprie, sono sportivi vere e proprie, si comportano da tali nonostante abbiano anche 14 anni. C'era un ragazzo addirittura di 14 anni all'interno della squadra. E questa è stata la più grande scoperta, il più grande insegnamento che mi porto dietro, insomma, da questa esperienza. Oh Andrea, tra l'altro mi ero scordato di dire che era all'interno il tuo lavoro del Via Emilia Doc Fest, come prima il documentario di cui abbiamo parlato con Andrea Zambelli, il Tecno e il Respiro del Mostro. Un'altra questione è quella dello sport, in questo caso veicolo per una diversa diverso peso, una diversa considerazione del mondo dell'handicap all'interno della società, può essere considerato lo sport un veicolo in questo senso? Sì, decisamente. Allora, diciamo che quello che ho capito girando questo film è che questi ragazzi, i ragazzi che ho conosciuto io, in un certo senso sono diciamo fanno parte di quelli che ce l'hanno fatta, no? Di quelli che nonostante il loro handicap derivi da un incidente piuttosto che siano nati così, insomma, no? Siano riusciti a superare proprio a livello psicologico quello che è il loro problema fisico, che comunque nella nostra società, che non è assolutamente a misura di disabile, è qualcosa di rilevante. E lo sport, in questo superamento, nell'aver raggiunto questo risultato, è stato sicuramente fondamentale. È stato sicuramente fondamentale. C'è una ragazza che nella nazionale del 22 c'è anche una ragazza. Almeno c'era, in realtà, perché adesso ne ha 22 anni, quindi non farà più parte della squadra, ma comunque faceva parte della squadra quando abbiamo girato noi. E lei fino a praticamente 14 anni camminava, correva, benissimo. Nel giro di 2 anni si è ritrovata su una sedia a rotelle, semplicemente perché appunto da una zecca non si sono accorti di quale fosse il problema. Lei ci diceva che ha superato lo shock di trovarsi in questa situazione proprio grazie allo sport, al basket in particolare. Volevo chiederti anche se a tuo avviso oggi, al giorno d'oggi, nella società l'handicap vive una diversa considerazione o meno? Allora, sicuramente ancora oggi i cittadini, le persone disabili vengono considerati un po' cittadini di serie B, insomma. Si parla sempre solo dei falsi invalidi, no? Hanno scoperto i falsi invalidi di qua, i falsi invalidi di là. Non si parla mai degli invalidi, quelli veri, no? Ai quali, per magari quelle poche decine di falsi invalidi, tagliano continuamente la pensione di sostentamento, l'aiuto, insomma, che lo Stato passa a chi si trova in questa situazione. Ed è cosa, tra l'altro, abbastanza recente. Quindi credo che ancora oggi ci sia, non ci sia una vera presa di coscienza di quella che è la situazione di queste persone, dell'aiuto di cui hanno bisogno e che del quale però hanno bisogno, non è che lo richiedono perché si trovano in una qualche situazione di, no, diciamo, ne hanno bisogno ma non lo pretendono, mettiamola così. Infatti è molto difficile imbattersi in manifestazioni o cose particolari di queste persone, hanno una grandissima dignità di solito. Andrea, in chiusura, dove si possono avere informazioni in rete rispetto al tuo lavoro, eventuali date di proiezione? Allora, riguardo con le ruote per terra, abbiamo una pagina Facebook dove potete trovare tutte le informazioni sul film, seguire e dove ovviamente metteremo qualunque informazione relativa a future proiezioni. Future proiezioni che al momento non sono in programma, in quanto noi col 2011 sono praticamente più di un anno che andiamo in giro e non essendo una grande produzione, non abbiamo la forza di seguire oltre questa cosa. Però, insomma, nulla toglie che possiate scriverci e a quel punto noi faremo in modo di fare una copia a chi dovesse scriverci, chiamarci, insomma. Benissimo. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi. Ciao. Andrea Boretti, regista del documentario Con le ruote per terra. Abbiamo ancora ospiti, possiamo andare ancora avanti per un po'. Giovanni Giommi, regista del documentario Cattivo Tempo, ben trovato a Visionari, Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. In mezzo alla neve della pianura padana. In questo momento no, ho lasciato la pianura padana, però sì, ero su un Eurostar che si è piantato in mezzo alla neve, era molto cinematografico, tutto bianco, ma forse per la linea un po' scomodo. Allora, Cattivo Tempo, andando per estrema sintesi, si parla di un'isola bordello, dico bene? Esatto, il film è stato girato a Banishanta, che è un'isola bordello in Bangladesh. Non è una vera e propria isola, nel senso che bisogna immaginarsi una striscia di fango lunga 200 metri e larga, forse più largo, una decina di metri. Ed è di fronte a un fiume immenso, il Pashur, e di fianco a una foresta vergine che è il Sundarban, foresta dove vive la tigre del Bengala. Questo, diciamo, è il panorama dove è stato girato il film. Giovanni, come sei venuto a conoscenza di questo angolo di terra? Dunque, volevo raccontare la storia di, diciamo, quelle popolazioni che stanno in questo momento vivendo l'emergenza del cambio climatico e non solo ne parlano come noi, nel senso che stanno veramente vivendo quell'emergenza. Quindi il Bangladesh è un luogo dove questa emergenza sta avvenendo e sono arrivato in Bangladesh cercando una comunità e sono entrato in contatto con una giornalista locale molto brava che mi ha indicato Banishanta. Quindi quando sono arrivato a Banishanta era al tramonto, dall'acqua con una barca ho visto questo luogo e immediatamente ho capito che era il luogo adatto per fare un film. Senti, che storia ha questo luogo? Allora, questo luogo è un bordello, come dicevo, bisogna immaginarsi, una striscia di fango su cui sono costruite delle baracche di bambù come in schiera, e è un bordello che avrà una trentina d'anni. Fino a qualche decennio fa era fiorente perché le navi risalivano il fiume venendo dal Golfo del Bengala per scaricare le loro merci, quindi le crew delle navi, i marinai scendevano a terra e frequentavano questo bordello. Con le conseguenze del cambio climatico anche le navi hanno la possibilità, diciamo, di risalire il fiume e tutta l'economia del bordello è entrata in crisi. E adesso la situazione qual è? Rischia di scomparire questo spazio? Pronto? Purtroppo. Pronto? Ecco, sì, sei tornato. Ecco, scusate, non sono in una galleria in questo momentaccio. Sì, trovo destinato a scomparire perché appunto a causa delle conseguenze del cambio climatico sarà sempre di più sottoposto a cicloni sempre più violenti e inondazioni sempre più violente, quindi il futuro di questo luogo purtroppo è scomparire. Senti, e come è organizzata questa comunità di prostitute? Allora, queste comunità che io preferisco chiamare lavoratrici sessuali, esatto, come loro esatto. Si definiscono, è organizzata da un punto di vista del lavoro, ci sono delle ex prostitute o lavoratrici sessuali che danno da lavorare e affittano delle stanze a delle ragazze più giovani. Tutta la comunità è organizzata intorno a una ONG e c'è una leader politica della comunità che è uno dei personaggi del mio film, che tiene i contatti, diciamo, con il network che chiede al governo del Bangladesh di essere riconosciute come lavoratrici sessuali, nel senso che la prostituzione in Bangladesh è ammessa, ma è ancora illegale. Ho capito. E le risposte finora del governo quali sono state? No, il governo, dobbiamo ricordarci che il Bangladesh è un paese musulmano, anche se nel panorama dei paesi musulmani diciamo è un progressista, però probabilmente avranno poche possibilità di farsi riconoscere questo statuto. Quindi si preparano anche loro all'esodo da questo lembo di terra oppure no? Ma guarda, io sono andato lì appunto, diciamo, puntando su questo argomento, ma quando sono arrivato mi sono reso conto che le urgenze quotidiane che delle donne possono vivere in un luogo come questo, facendo questo tipo di lavoro, sono talmente grandi che alla fine, come dire, la paura per una catastrofe come appunto un ciclone, una grande inondazione, è sempre rimandata. Nel film il personaggio che invece riporta a questo argomento è il matto dell'isola Ismael, in qualche modo grazie alla sua follia è distaccato appunto dai problemi quotidiani e ha una visione, diciamo, nel passato, quindi nella memoria di quello che è già successo, quindi degli uragani che hanno colpito questa zona, questa isola in particolare, e di quello che potrà succedere purtroppo, perché appunto l'isola è destinata per un innalzamento delle acque dell'oceano o per un arrivo di un ciclone a essere spazzata via. Ecco, in chiusura, proprio rispetto ai cambiamenti climatici, dicevi noi ne parliamo, ma lì li vivono proprio materialmente, ecco, e ci sono si sono mossi in qualche senso i governi per affrontare la situazione? No, in realtà ci sono, beh, oddio, in Bangladesh ci sono degli specialisti che forse sono tra gli specialisti più migliori nel panorama mondiale per quanto riguarda l'emergenza del cambio climatico. C'è un argomento di studio universitario molto approfondito. Nello specifico dell'isola, purtroppo, e di tutte le popolazioni che vivono lungo l'argine del fiume, possono solamente ricevere con un preavviso di qualche ora un avviso di evacuazione, e nel caso delle lavoratrici sessuali di Banishanta sono anche le ultime a poter entrare nel rifugio anticiclone, proprio per il loro statuto, diciamo, sociale, per la loro condizione sociale. Ho capito. Giovanni, in chiusura, il tuo documentario è stato presentato al Festival di Torino, ma per saperne di più c'è in rete, su internet, qualche luogo dove si possono avere maggiori informazioni anche per eventuali proiezioni? Allora, il film io ho messo in rete in un, diciamo, in un account a mio nome su Vimeo alcuni trailer, per cui da lì si può vedere, diciamo, il film, si può capire che andamento ha il film. Sì. In questo momento non sono delle proiezioni in Italia, ma in questo momento in Europa. E se qualcuno comunque volesse cercarlo, può rivolgersi alla Maiade tedesca di Berlino, che distribuisce il film, e quindi si può anche acquistare un DVD se qualcuno fosse interessato. Ok, comunque su Vimeo ci sono delle parti di documentario. Su Vimeo, come a Giovanni Giommi, potete trovare alcuni trailer, insomma si capisce credo bene l'ambientazione e dove arrivare il film. Il film è un film di osservazione, quindi non è un'inchiesta, è un racconto di storie di persone. Benissimo. Giovanni, a risentirci alla prossima allora. Grazie a voi. Un abbraccio. Presto, ciao. Giovanni Giommi, regista del documentario Cattivo Tempo, come dicevamo prima, presentato al Festival di Torino, e in rete si possono trovare alcuni trailer, alcuni spezzoni di questo documentario su Vimeo di Giovanni Giommi. Dovremmo essere in chiusura con un ultimo collegamento, un attimo di pazienza. Oh, ce l'abbiamo fatta anche a sentire te, Luca Franco, ben ritrovato. Ciao. Oggi abbiamo un po' di più di tempo a disposizione. Ti avevamo sentito la settimana scorsa per parlare di questa serie di cui sei il coautore, la serie Almost True, che va in onda su Rai 2 ogni martedì. Avevamo parlato del secondo appuntamento, avevi anticipato qualcosa del terzo appuntamento, ne riparliamo oggi. Questo sarebbe il quarto. Il quarto, allora il quarto. Sbagliavo i conti, va bene. Sì, sì, il quarto che sei sui Led Zeppelin. Sui Led Zeppelin. Poi c'è, come si dice, ce ne sarà, no anzi questo è il quinto, scusami, sui Led Zeppelin. Poi ce ne sarà un altro su Tupac, sugli omicidi fra i rappers americani. E poi ci vedremo in bellezza con David Bowie. Vabbè, chissà, magari riusciamo a riparlarne anche nelle prossime puntate, però ricordiamo, ecco, come nasce questa serie e come è costruita. Allora, praticamente nasce da insomma una conversazione che a un certo punto abbiamo fatto con Carlo e con la voglia di Carlo Lucarelli di mettersi in gioco, no? Perché lui già faceva le di giallo su DJ Television, e poi gli siamo proposto, sia DJ Television sia io gli ne avevo parlato, insomma, così di trasformare i gialli in veri e propri documentari, cioè partire dalle come si possono dire, le leggende metropolitane che si creano sempre sui grandi personaggi del rock, e tentare di riscrivere un'altra storia, no? Utilizzando il format verità no? Che è quello della televisione, quello che lui utilizza nelle altre trasmissioni, dove in realtà è assolutamente rigorosissimo. Infatti le trasmissioni di Querelli hanno preso tipo una querela in 10 anni, insomma. Penso che una querela poi mi sembra da un mafioso che a cui avevano attribuito 61 omicidi invece che 60, quindi una querela abbastanza ridicola, però vabbè. E poi da Pellucci, perché lui le fa sempre, insomma, preventive. Però insomma, la cosa interessante di cui ti volevo parlare oggi era la risposta del pubblico, no? Ah, noi abbiamo una pagina Facebook di Almostru, no? Ed è assolutamente divisa in due, ti leggo un po' di cose, no? Uno dice: è stato interessante perché ho ripercorso la vita di Bob Dylan, che ritengo tutt'altro che umano. Che puntatona quella di ieri sera, fantastici, meritereste la prima serata, mi è preso un colpo. Grazie ad un programma che ci ha fatto tornare la voglia di vedere la Rai e la TV in generale. Complimenti Carlo, certamente più geniale del film I'm Not There, su questo non sono d'accordo. E poi un'altra bellissima: le cazzate su Dylan hanno superato quelle dette da Berlusconi in anni di carriera. Questa secondo me è bellissima. E poi: ma trovassi un vero lavoro a Lucarelli, proprio non gli va? Quindi c'è un come si dice, proprio uno o bianco o nero, cioè o chi dice che è geniale, no, perché comunque ha recepito il gioco, no? Il fatto che poi di mettere proprio in discussione la forma televisiva come forma di regolare la verità, e chi invece, avendola in qualche modo introiettata, si è sentito tradito. Ha detto: ma come? Cioè, no, cioè se le cose non sono vere non potete dirle in televisione, capito? Non potete far finta che siano vere, perché io, come si diceva, ho fatto questo atto di fiducia, che poi è un atto di, secondo me, anche di non so, un po' depressivo, no? Che uno delega completamente alla televisione, ai giornali, per almeno evitare di pensare con la propria testa, ma no, questa è un'idea mia, però insomma, comunque dice, è un atto un po' di pigrizia, no? E adesso io ti ho dato tutta questa fiducia e tu non puoi tradirla. Ed è una cosa che, non so se l'ho detto anche l'altra volta, è successa anche in Nuova Zelanda con Forgotten Silver, che però fu molto più, noi siamo stati molto più corretti. Forgotten Silver non dissero niente, lo mandarono così, facendo finta di, anche con la complicità del capo della New Zealand Film Commission, no? Come se qui con Rondi, no? Dice: no, è vero. E quindi questa è la cosa interessante, che se ne sta iniziando a parlare. Insomma, i mi piace su Facebook sono saliti da 300 a 1600 nelle puntate, abbiamo avuto tantissimi insulti, che poi piano piano però si sono trasformati in ma eri fregato, bastardi. Poi alla fine ha detto: alla fine è diventato un gioco con gli spettatori, insomma. Esatto, la cosa bella è questo, che finalmente, e questa è un po' la cosa bella del documentary, c'è un pubblico che non è completamente passivo, no? Tu chiami il pubblico a, in qualche modo, a riflettere su quello che sta vedendo. Sì, capito? Lo punzecchi, no? E quindi questo è un gioco, una cosa che insomma ci piace molto. Come dicevi prima, lo smuove un po' dalla pigrizia, e non tutti sono disposti a farlo, insomma. Esatto, esatto, esatto. Non tutto. È questo. Però il fatto che molta gente ha detto: siete dei bastardi, però io non ce l'ho cascato neanche una volta, eh? No, io l'avevo capito subito. se andate a vedere la pagina Almostru di Facebook, vedete tutte le cose, e ed è molto bello vedere anche che la gente, si relaziona con noi, perché non c'è la solita cosa: ah, siete bravissimi, complimenti per la trasmissione, oppure non mi è piaciuto, ma c'è proprio una cosa più spumeggiante. Sì, no? E questo io a me penso, e anche a Carlo è piaciuto moltissimo. Perché poi tutti ci siamo messi un po' in gioco, tutti abbiamo risposto, sì. Capito? Io inizio a spiegare: ah no, però il movimento è una cosa del genere, la gente mi ha risposto. Quindi c'è non è il solito programma, ha creato un circolo virtuoso, no? Sì. Anche poi nella dialettica e nello scontro con con il pubblico, almeno con, con una parte del pubblico, quello che sta su Facebook, che sta quello che ci segue. Senti, oltre a questo aspetto ludico e creativo, ecco, quali sono, quali erano le finalità quando avete deciso di dare il via a questo esperimento? Questo era, come si dice, il fatto di in qualche modo prendere in giro un po' la dietrologia, sì, no? La dietrologia fino a se stesso di programmi anche come il buon, come si chiama quello di Giacobbo, a cui ci hanno paragonato, tra l'altro. Lo so, paragonato, io sulla televisione sono parecchio carente. Ah, ok. Prendere in giro sono delle cose che sparano, capito, a zero solo per, come si dice, avere un po' di audience, no? Con cose che insomma sono palesemente coi senza prove, no? E poi il fatto che far anche riflettere sul fatto che c'è proprio come si può dire, un genere che può essere, che è codificato, che può essere come il genere horror di fantascienza, vabbè, che si sono mischiati, no? Il documentario, così, che è un genere che dovrebbe veicolare la realtà, pure il telegiornale è un genere che dovrebbe veicolare la realtà, capito? Quindi fa riflettere su questo. E poi giocare con la musica, cioè fare una specie di operazione un po' così, prendendo anche un po' in giro il postmoderno dove tutto si mischia, no? Senza nessuna, come si può dire, che tutto può essere collegato a tutto. No, che non c'è storia, che tutto è messo sullo stesso piano, un enorme mosaico, no? E se tu questa cosa lo tiri alle estreme conseguenze, c'hai dei giochi, insomma, ma anche delle, insomma, cose abbastanza discutibili come Almost True, no? Perché se tu dici che ne so, metti la voce di Jim Morrison, come abbiamo fatto l'altra volta, la voce di Barry Manilow, e in mezzo ci metti il, come si dice, l'analizzatore vocale, poi lo fai coincidere, no? Lì hai, cioè, lì hai detto che è vero, capito? Mentre invece non è assolutamente vero, cioè le voci sono completamente diverse, capito? Anche fa riflettere su quello. E poi sul fatto che la musica e il rock è un immaginario talmente grande, no? Talmente forte. No, questa è una riflessione, che tu puoi costruirci qualsiasi mito, no? Anzi, puoi fare il mito di quello che risorge, il mito di quello che non muore mai, il mito della metamorfosi, di quello che si trasforma. È veramente la nostra nuova mitologia, no? I nuovi stanno lì. Anche ragionare su questo, sulla società del spettacolo e sul rock, no? Come momento privilegiato. Senti Luca, in chiusura, qualche anticipazione sulla puntata di martedì prossimo dedicata ai Led Zeppelin, da che punto di vista? I Led Zeppelin, il loro rapporto con Aleister Crowley, no? Il loro essere coltissimi, il loro avere tantissime, ma tantissime ispirazioni, loro hanno tirato fuori, sono partiti dal blues, però conoscevano tutta la musica. Come facevano delle creature umane a conoscere tutte queste cose? Quindi potrebbero non essere umani i Led Zeppelin? No, ma vediamo. Chissà. Lo sapremo martedì prossimo su Rai 2. A che ora, Luca? Alle 23:35. 23:35, i Led Zeppelin. Chi sono i Led Zeppelin? Va bene, allora ci sentiamo. Ho magari visto cose che voi umani. Blade Runner. Va bene, senti, grazie tantissimo della chiamata. Siamo molto felici di parlare al mondo tramite Onda Rossa. Bene, allora se ce la facciamo magari anche la settimana prossima ci sentiremo per i prossimi appuntamenti. Un abbraccio e buon proseguimento, Luca. Anche a voi, buon ascolto e un saluto a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa. Ciao Luca. Ciao. E lui era Luca Franco, che è coautore della serie Almost True, in onda il martedì intorno alle 23:30 su Rai 2. con Visionari siamo alla conclusione. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, e per tutte le informazioni in merito alla trasmissione vi rimando alla scaletta pubblicata sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari per l'appunto. Buon proseguimento.